d'intesa con i suoi collaboratori, si comincia. Uno, due, tre. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ma questa gara mi ha fatto capire che quest'anno vinceremo lo scudetto. Io sono sicuro di questo perché ho una squadra fortissima, siamo più forti che la Juventus e lo dimostreremo in campo. Mi basta solamente un sì o un no. C'è lunedì prossimo Roma-Juventus, un girone fa lei disse la Roma vincerà lo scudetto, se tornasse indietro la rifarebbe ancora quella dichiarazione. Ma c'è soprattutto giovedì una partita a Feyenoord, niente altro conta per il momento. Sfortunato, i ragazzi hanno mostrato nel primo tempo soprattutto che quando siamo in movimento, quando giochiamo con velocità, un palleggio veloce, possiamo dare fastidio a tutte le squadre. Quando uno esce non è contento perché vuole continuare la partita. Il capitano è uno di quelli, con sempre il rispetto delle scelte. Non cercare problemi dove non ci sono, per favore, grazie. Chiedo scusa che ho tradito. E affanculo ogni nemico. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Daniele Buonamici in redazione, buongiorno a tutti. Una partita non giocata per pioggia, il derby di Genova, l'altra chiusa per rapina, è un campionato che in fondo non ha detto, in questo lunghissimo, stralungo, extra large weekend, nulla di nuovo. La Roma è implosa, la Juve può organizzare, come scrive ad esempio Luigi Garlando oggi sulla Gazzetta dello Sport, un picnic per lunedì prossimo. Ci sono buone ragioni, secondo voi, ma realistiche, per tenere vivo, anche se con respiratore artificiale, questo campionato? Buongiorno Luigi Pardo. Luigi? Pierluigi Pardo. Buongiorno. Pierpardo o Gatto Pardo. Come stai, amico mio? Tutto bene? Molto bene, sì, molto bene. Vorrei il 23 febbraio avere ancora un campionato, ma secondo me non c'è più. Ma insomma sì, il sospetto è che ci abbia lasciato, insomma, che non sia più vivo e non lo abbia lasciato. Però io ribadisco quello che dicevamo ieri, cioè aspetterei ancora lunedì, tanto manca poco, insomma, manca una settimana per toglierci ogni dubbio, nel senso che comunque lunedì c'è uno scontro diretto e chiaramente la Roma ha soltanto un risultato, e se anche dovesse vincere, cosa ad oggi è abbastanza complicata da immaginare, se riuscisse a vincere comunque il più sarebbe ancora da fare, quindi sarebbe ancora molto lunga la strada, però magari potrebbe provare, diciamo, a riaccendere un po' di dubbi nella testa della Juve. In mezzo c'è la Champions League, c'è Feyenoord Roma, insomma, diciamo che tutto va in una direzione, però aspetterei ancora una settimana. Sì, di converso potrebbero essere anche gli 8 giorni della grande delusione, o se vuoi usare la parola fallimento, fallo pure. Si va non a Feyenoord, come dice Garcia, ma a Rotterdam contro il Feyenoord con un 1-1 che non lascia per niente tranquilli, e poi c'è la Juventus che potrebbe aver drenato le energie in Champions League con il Borussia Dortmund. Però al momento è una Roma davvero appesa a un filo sottilissimo da tutte e due le parti, Sicuramente è una Roma stanca, svuotata, che fatica a segnare. Il dato oggettivo è che non segna più tanto, non fa fatica a fare più di un gol a partita, non ci riesce quasi mai, e questo è un dato oggettivo. Rumina calcio, fa tanto possesso palla. Ieri secondo me non è neanche giocato la peggiore partita in assoluto, però non fa paura, cioè il Verona paura, era esatto. Molto ben organizzato dietro, ma non dava l'impressione di andare in sofferenza. Assolutamente l'episodio chiave è stata, diciamo, l'unica vera occasione che ha avuto il Verona, quella dell'1-1, e da quel momento in poi non c'è stata proprio più, cioè il Verona ha tenuto ma non è che abbia concesso tantissimo, quindi chiaramente ci sono tante cose rispetto a un anno fa che non funzionano, la squadra è meno imprevedibile, è più prevedibile, gli interpreti non sono gli stessi di un anno fa, la difesa è completamente diversa, alcuni giocatori comunque quest'anno hanno faticato di più perché avevano un anno in più dal punto di vista anagrafico, penso per esempio a Maicon, alcuni acquisti non hanno fatto quello che ci si immaginava potessero fare, come i Turbe, come lo stesso Cole, il mercato di gennaio è stato catastrofico, a parte questo tutto bene, ecco, no? Detto questo, perfetto, io ribadisco che l'unico aspetto vagamente, l'unico bicchiere mezzo pieno, è che io non vedo una squadra mai o quasi mai dominata, quindi penso che per esempio a Rotterdam se la possa giocare, perché comunque, insomma, mi sembra le partite della Roma sono tutte equilibrate in questo periodo. Il problema della Roma è che non riesce più a fare la differenza con le squadre piccole, quindi perde tantissimi punti. Equilibrata verso il basso, è una squadra che si è incardata su se stessa, si è involuta, quando non riesce ad essere meravigliosa come era l'anno scorso non riesce neanche, questo anche per ragioni tecniche, perché di questo si discute ampiamente, non riesce neanche a trovare uno spartito differente, perché appunto un centravanti vero non ce l'ha, e questa è la scoperta dell'acqua calda. Torneremo a parlare di tutto questo e di molto altro ancora subito dopo il traffico. 800 24 00 24 è il numero verde. Sai che già chi mi scrive: basta col pardo originale, vogliamo Max Giusti. Ne parliamo più tardi. Lei stia lì. Che bello. A dopo. Non c'è un imputato, non c'è neanche un banco, perché noi crediamo molto nel lavoro di Garzia e non sarà certamente messo in discussione, ma noi non mettiamo in discussione neanche i nostri calciatori in realtà, perché ci fidiamo di loro. Viviamo un momento molto delicato, non particolarmente brillante, i risultati non ci sono favorevoli, però ci fidiamo sia dell'allenatore che della squadra. Tutti convocati. Io credo che ci siano legittimi interessi da parte dell'associazione e della Lega e degli enti locali sul territorio, perché bisogna che si responsabilizzano tutti i fattori della produzione del calcio del quale fruiscono, del quale si immaginano, a intervenire a far sì che si raccolgano quei fondi per poter fare l'esercizio provvisorio, dopodiché con l'esercizio provvisorio dare la facoltà a chiunque intenda iscrivere il Parma Calcio in Serie B, ottenere dei paracaduti che sono previsti dalla legge. Questo era Tavecchio che ha parlato a lungo ieri. Dicevamo prima, una partita chiusa per pioggia, l'altra chiusa per rapina, come recitava un cartello scritto sui cancelli del Tardini. Pierluigi, salutiamo un tuo amico, Giorgio Porrà. Ah, che bello. Ciao Giorgio. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Come va? Il battito Dali, lo inseguiamo sempre? Lo inseguiamo il battito Dali? Eia. Che privilegio partecipare alla trasmissione più cool in circolazione, grazie anche ragazzi. Anche perché è l'unica, questo concetto. Senti Giorgio. Ma non è l'unica, ok. Ci teniamo la più cool. 800 24 00 24, ringraziando e chiedendo, ma magari chi mette tutti i milioni della TV, come ad esempio Sky, ma come ad esempio Mediaset, siete due esponenti di queste televisioni, non è che prima o poi comincerà a chiedere il conto di un campionato in cui una partita è chiusa per pioggia, l'altra per rapina, le altre non si sa, forse il Parma va a Genova facendo il corteo delle macchine come si fa in terza categoria, ha detto oggi Lucarelli, ci andremo a giocare anche in macchina, vedremo questo. Non è che prima o poi qualcuno presenta il conto? Ma devo dire che avverto, percepisco un certo fermento, un certo disappunto ai piani alti, ai vertici, piani ai quali non ho accesso, ma questo disappunto, insomma, arriva anche nei piani inferiori. No, siamo tutti qui che stiamo aspettando di capire cosa succederà nelle prossime ore per salvare il salvabile, no? Come tristemente si sta dicendo da giorni, è un'espressione che la dice lunga sul senso di precarietà allucinante trasmesso dal nostro calcio. Sentivo prima Tavecchio che tu non, che bisogna portare il libro in tribunale, ma il valoroso faccendiere Manenti, insomma, non si capisce bene che intenzioni abbia, non so, voi lo sapete, o forse non ha più alcuna intenzione, o forse non ha mai avuto una, forse è stato in qualche modo manipolato e abbandonato da qualcuno. Fatto sta che Tavecchio dice che tutte le società di A devono intervenire per consentire al Parma di finire il campionato, e anche questa, insomma, più che una situazione del grande campionato europeo, sembra uno scenario da colletta, da cortile, no? Con tutti che si quotano per comprare il Super Tele, voi ve lo ricordate, no? Come no? Bianco e nero con gli esagoni. No, il problema però è che i debiti sportivi, perché qui si parla di fallimento pilotato, che i debiti sportivi e il numero di atleti sotto contratto, adesso leggevo prima che il Parma paga 6 milioni euro lordi di stipendio e c'è 130 giocatori sotto contratto, insomma suggerirebbero a chi ha visto i conti che sia più conveniente ripartire dilettanti in modo da evitare gli oneri. Quindi insomma tutte le soluzioni mi sono piuttosto complicate da questo punto di vista. Pierluigi, a Mediaset come si vive? Ma anch'io non ho accesso ai piani alti, quindi da questo punto di vista. Però un feeling ce l'avrai, no? Al primo piano. No, beh, un feeling, diciamo, sulla ragionevolezza. Ha senso, mi sembra che è chiaro che le televisioni non siano contente, non è contento nessuno. Insomma, fatto quante partite ci sono nel campionato? Ci sono 9 partite a settimana per, cioè 10 partite, 380 partite. Fate un calcolo, il fatto che il Parma possa saltarne 14 o 13 vada occhio, è un danno di 26-28 milioni di euro fra Sky e Mediaset facendo una valutazione di questo tipo. In generale, diciamo che in questi anni, anche su tutto il discorso per esempio mediatico delle interviste, abbiamo fatto un po' la buona. Da questo punto di vista l'UEFA ha dei paletti molto più rigidi, non c'è un allenatore che possa fare il silenzio stampa prima di una partita e non presentarsi in conferenza, perché ci sono dei principi un po' come nell'NBA e negli sport americani, quindi prima o poi ci arriveremo sicuramente. Io spero che gli attori, cioè le squadre di calcio e le società, si rendano conto che la partecipazione e l'impegno ci deve essere, perché l'investimento delle televisioni è un investimento molto importante. Certo. Poi io e Giorgio è sicuramente d'accordo con me, consiglio a chi può di andare sempre allo stadio, lo dico pur lavorando nelle televisioni, è chiaro che lo stadio è una cosa straordinaria, credo anche che le televisioni in questi anni, se uno è appassionato di calcio, abbiano svolto un servizio straordinario, non penso siano la rovina del calcio. Hanno tenuto in piedi il sistema e poi comunque dando la possibilità a tante persone, per esempio che vivono lontane dalla propria città, di poter seguire la squadra in qualsiasi momento. Sì, ma guarda, io sono sempre stato contrario a questo qualunquismo secondo cui la gente non va allo stadio perché guarda la partita in televisione. Può valere per una piccola percentuale, ma chi era abituato ad andare allo stadio non ci va per altre ragioni, non perché è tutto coperto dalle televisioni. Piuttosto, Giorgio, cosa raccontiamo per quanto riguarda lo scudetto da qui fino al 31 di maggio? È dura, è lunga, lunga. Raccontiamo che bisogna ingegnarsi a trovare delle storie alternative. La statistica parla chiaro, immagino che ne avrete già parlato, nel senso che nel campionato a 3 punti, se non ricordo male, 5 volte è successo che la 24esima ci fossero 9 punti di vantaggio e ha sempre vinto. Alla fine ha tagliato lo striscione d'arrivo, insomma, la squadra che stava fuggendo, la squadra che faceva da lepre, era successo anche alla Roma nella stagione dello scudetto, di avere 9 punti, poi un po' se li mangiati, ma alla fine ha vinto lei. Credo che la Roma debba serenamente dedicarsi alla strenua difesa della seconda piazza, però mi pare che tutto l'ambiente ne sia assolutamente ne sia assolutamente consapevole, lo sentivo dire anche da Sabatini nei nostri microfoni ieri. Devo dire che questa spettacolare pareggite della Roma sta funzionando da irresistibile spunto per certi genialacci sul web, no? Te lo dico perché stavo dando un'occhiata al web in precedenza. Il web che resta, dal mio punto di vista, un territorio selvaggio che dà spazio, insomma, alle pulsioni più becere, però in alcune situazioni ci regala delle gioie. Prima stavo guardando Garcia crociatissimo, avvolto in un plaid con tante X tatuate sul corpo, insomma, una specie di morbillo declinato a mo' di schedina. Il problema è che Garcia mi pare che stia facendo molta fatica, no? A spiegare e a spiegarsi che cosa sta succedendo alla Roma, perché continua a fare, a commettere errori praticamente in fotocopia. Questa è una squadra che riesce a giocare a pallone, riesce a divertirsi solamente per pochi momenti, no? Della gara l'abbiamo visto col Fire, non l'abbiamo visto anche ieri. È una squadra che si muove, no, a cadenze moviolate, anche giocatori che stanno facendo bene come Keita nella precisione della distribuzione, ma Simono veramente troppo lentamente, ci sono i nuovi che non incidono, Dumbia però adesso fa solo evitare i tifosi, Jorginho continua la sua confusione post Coppa d'Africa, Pjanic non fa più calcio verticale, forse è il caso magari trovare un'altra collocazione, magari metterlo davanti alla difesa per dare un impulso migliore alla distribuzione da dietro. Oppure in questo momento anche seduto, non ci sta male seduto. Oppure anche seduto, e insomma, fatto sta che... Ma io ho sempre pensato che sia anche un problema di mentalità, questa squadra è cresciuta in modo straordinario troppo in fretta, troppo velocemente, ha fatto il pieno di aggettivi troppo in fretta e adesso con una serie di turbolenze che sono arrivate a complicare il lavoro di Garcia non riesce più a reggere il carico di queste aspettative. Ed è un peccato, questo continuo a ripeterlo, perché a me il progetto Roma... Quello che è un profumo di modernità che ci ha dato tante soddisfazioni anche da spettatori neutrali, insomma non vorrei che si disperdesse tutto adesso, perché insomma lo sappiamo che a Roma c'è sempre questa tendenza alla depressione totale. Grazie Giorgio. Grazie a voi. Ciao Giorgio Porrà. Pier, comunque mi sembra evidente, prima di andare con la borsa e poi con gli ascoltatori 800240024, che a questo punto la partita scudetto sia svuotata non per colpa di Rocky di sicuro. Almeno questo dato ce l'abbiamo. Anche se diciamo gli integralisti romanisti, qualcuno dirà pure che quella partita lì è stata l'inizio della fine, ma insomma, è evidente che la Juve è più forte, fino a questo momento ha dimostrato di essere nettamente più forte, la Roma ha buttato via mille occasioni, semplicemente a meno benzina, a meno voglia probabilmente, a meno cattiveria e soprattutto a meno soluzioni. Io credo che in questo momento la Roma avesse maledettamente bisogno di un grande attaccante, perché l'attaccante è quello che spesso riesce a mascherare i problemi della squadra, ti spareglia le carte, che può permetterti anche di non giocare benissimo e di trovare un colpo che ti risolve i problemi. Questo attaccante non c'è, ce l'ha per esempio il Napoli, anche se stasera non sarà disponibile contro il Sassuolo, la Roma non ce l'ha, la Roma deve fare tutto quello che ottiene, la Roma lo ottiene attraverso il gioco, la manovra, questo continuo accerchiamento dell'avversario che poi nei momenti di grande brillantezza porta a delle giocate sublimi che sono sparite. Comincia a essere lungo il periodo del calo, siamo a due mesi ormai senza che questa squadra riesca a ritrovare se stessa completamente. All'inizio si poteva pensare che potessero essere anche dei carichi fisici magari diversi o sbagliati, esatto, è passato troppo tempo. Però aspettiamo lunedì. C'è chi scrive il sosia di Morandi alias Garcia, l'anno prossimo va al Barça, questo lo vediamo. Intanto il Barça ieri si è fumato il campionato, però certamente ha perso in casa con Malaga lasciando via libero al Barcellona. Gennaro Caserta, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Dica. No, volevo soltanto dare un argomento per quanto riguarda il fallimento del Parma. Sì. Se possibile, nel senso che io sono tifosissimo del Napoli, però questo non c'entra. Cioè, il Napoli anche ha subito un fallimento come la Fiorentina. Capisco che il campionato possa essere tra virgolette falsato, però è una società, un'impresa civile, nel senso che se fallisce. Io non capisco perché c'è tutto questo accanimento a salvarla e fare figli e figliastri quando non mi sembra il caso, nel senso che il Parma è stato amministrato male e purtroppo questo è il risultato, come falliscono ogni giorno 100 aziende. Gennaro, non mi pare ci sia accanimento terapeutico, semplicemente una preoccupazione di fare in modo che, come è successo ad esempio per il Bari l'anno scorso con problematiche e soprattutto cifre molto diverse, di arrivare alla fine della stagione con la 20ª squadra di Serie A in modo che tutti ci possano giocare contro, no? Mi pare questo il discorso. Sì, in realtà si può anche a voler essere cinici, c'è anche da chiedersi perché non sia già stato assegnato lo 0-3 all'Udinese, lo dico con affetto per Parma e col massimo della solidarietà, però voglio dire però se cominci così è finito, no? Cioè allora fai... Però magari la settimana prossima riesci a trovare i soldi per lo steward. Scusate, veramente il discorso sembra veramente da cinico, però Boh, non lo so, io mi dispiace, poi ieri insomma abbiamo capito che il meccanismo è sbagliato, perché c'è questo problema in pratica che pagando gli stipendi fino ad aprile tu hai praticamente di fatto l'iscrizione all'anno successivo, quindi puoi riuscire a mascherare, come è successo nel caso del Parma, dei problemi economici enormi e cominciare la stagione come se nulla fosse, e ti ritrovi qualche settimana dopo in una condizione... È un imbroglio, dai. Diciamolo chiaramente, è un imbroglio legalizzato. Borsa. Tanto qui i tifosi abbastanza furibondi cominciano a far esplodere qualche bombone, tanto per riscaldare la serata. Si ricomincia. Tutti convocati. Si ricomincia, sì, 800 24 00 24, è il vostro numero verde. Pierluigi Pardo collegato, Cesare da Venezia in linea, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Pardo, dottor Cinta, grazie di esistere. Guai se ci mancate, guai. E ascolto sempre molto volentieri. Volevo ricollegarmi al discorso di televisione e stadi, che appunto avete iniziato dicendo che la TV ha portato via gente dallo stadio. Assolutamente no, io per par condicio ho entrambi gli abbonamenti, in salotto quello di Sky, in cucina, in camera, o quello di Mediaset Premium, proprio per par condicio. Quando le bimbe vogliono guardarsi Violetta allora io vado in camera tranquillo, ecco. Il mondo dei pacchi, queste robe qui, va dall'altra parte. Da buon mestrini, mi ricordo quando Venezia era in Serie A, mi ricordo che mi ci voleva da mestre andare allo stadio, penso, stadio di 60 anni, vecchissimo, più di un'ora e venti di strada, certo. Pullman, battello e poi a piedi. 50 minuti sono a Udine dentro lo stadio con tifosi friulani eccezionali, che l'unica cagnara che devi fare è poi prenderti il panino con la porchetta o con la salsiccia, ecco, devo dire... Quindi non si rinuncia allo stadio solo perché c'è la TV, no? Questo è il discorso. Assolutamente, e più delle volte noi a Venezia abbiamo avuto di quelle cagnare che vedevi, tifosi vecchi del Venezia contro quelli del Mete, che lottavano tra di loro, e il terzo incomodo, non so, quella volta la Fiorentina, che erano lì che guardavano noi che ci si metteva le mani addosso, perciò cose vergognose. Con questo vi ascolto per radio e bravi, continuate. Grazie con Cesare, grazie, grazie Cesare. Grandi. Panino con la porchetta a Udine, non sono pratico, ti dico la verità. Non sono pratico. No. Qualità, Udine è un gran bel posto. Senti, a me è una trasferta che mi piace tanto, Udine, perché è così, un po' fuori dei traffici. Appena cominci a prendere l'autostrada, quella da Venezia in poi, ti perdi in una parte, in una bellissima campagna, una bellissima terra, ma poi c'è questa sensazione di essere così un po' isolati dal mondo che mi piace. E poi adesso finiscono anche lo stadio, sarà anche qualcosa di bello. Non bellissima la Fiorentina che hai raccontato ieri sera, eh? No, non bellissima, forse troppo turnover, forse Salah troppo tardi. Bel giocatore. Beh sì, bel giocatore, insomma, rimane la sensazione positiva. Montella ha provato a vincere la partita senza, secondo me, stare a spendere troppe energie in vista del Tottenham, che chiaramente adesso giovedì è l'evento clou. Ci stava anche riuscendo, poi a 3 minuti alla fine è arrivata questa beffa, che però ci sta, perché ti dico la verità, i primi 20 minuti la Fiorentina se ne ha dominato e poteva passare in vantaggio, c'era il rigore, forse c'era anche, anzi sicuramente c'era il primo, il secondo secondo me pure, insomma, comunque alla fine ha avuto occasioni. E poi però nel secondo tempo il Torino aveva dato un po' quasi la sensazione di poterla portare a casa con un pizzico di fortuna, ha avuto un'occasione clamorosa con Martinez e poi è subito questo gol e lì è venuta fuori, se vuoi, la vera contraddizione, perché la Fiorentina becca l'1-1 in contropiede, insomma non è riuscita a cambiare atteggiamento, non è riuscita dopo il gol dell'1-0, e anche quella è una caratteristica invece che le grandi squadre devono avere, non è riuscita a cambiare immediatamente atteggiamento, a capire che doveva a quel punto comportarsi in maniera diversa, più conservativa, ed è arrivato questo 1-1 abbastanza clamoroso per come si era messa la partita, per la dinamica, perché prendere il gol in contropiede quando sei in vantaggio, certo, no, fa ma abbastanza poi, orrore. È un'occasione persa, Pierluigi. Oggi leggi la classifica, Napoli 42, è ovvio che deve ancora giocare, Fiorentina 39, sono 2 punti persi per strada, ma la sensazione per Napoli, Fiorentina, Lazio e le altre lascerei stare, che tutte queste stiano perdendo, quando arrivano al dunque in qualche modo si sciolgano. Napoli a Palermo, la Fiorentina ieri, la Lazio, era successo a Cesena, cioè arrivano dei passi falsi che impediscono di

Ma gli addetti alla, ai lavori, che qualcuno finge sorpresa, dove sono stati fino adesso? Se c'erano, dormivano? Non lo so. Possibile che nessuno si sia mai accorto fin da subito della crisi, dell'entità della crisi del Parma? La domanda è perfettamente legittima. È possibile. È una cosa che io ripeto da, da molti giorni, questa domanda. Possibile. Cioè, ci sono delle, delle norme, lo dicevamo prima, fasulle, una truffa legalizzata, per cui paghi i giocatori fino al 30 giugno e sei vergine, anche se, come sì, leggevo almeno, oggi... almeno fino al 30 aprile, ci sono due mesi, diciamo, di tolleranza. Se tu alla fine della stagione hai pagato tutti gli stipendi, tranne due mesi, in pratica, quindi hai 60 giorni, sei in regola per iscriverti l'anno dopo, e di fatto quindi poi ti accorgi dello sfascio soltanto, soltanto a dicembre. Sono aspetti tecnici, chiaramente, probabilmente va cambiata anche la normativa, insomma. Io nel frattempo è chiaro che la situazione è imbarazzante, perché quel tipo di debito non lo puoi aver fatto in pochi mesi, su questo non ci sono dubbi, però insomma fino a qualche mese fa. Ma io adesso, come sapete, insomma, sono abbastanza amico di Cassano, e lui non poteva immaginare, diciamo, l'estate scorsa una situazione del genere. Nessuno immaginava una situazione del genere. È cominciato i problemi veri sono cominciati a ottobre-novembre, pesantemente. Sì. Intanto, nel corso di 7 stagioni, leggevo oggi, il debito del Parma ha subito un incremento nel frattempo, in 7 anni, del 1131%, lo scrive Alberto Costa sul Corriere della Sera, 1131%. Salvino, Lecce, buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie per essere stato convocato. Dica. Volevo portare una mia testimonianza e portare all'attenzione il discorso sul Parma per un motivo. Io nel precedente, nella precedente fallimento del Parma, ci sono andato dentro con due piedi, essendo un autotrasportatore, per cui quando sono venuti a Lecce hanno pittato tutti e se ne sono andati. Il problema delle squadre di calcio non è un problema di giocatori o di gestione, è un problema di debiti verso i terzi che non si riesce mai a quantificare. E mi spiego anche perché. In alcune gestioni, il prendere l'aereo privato da 10 posti, il prendere gli alberghi a 5 stelle, il chiedere servizi particolari, è chiaro che incide di parecchio sull'andamento di una società. Sì. Quello che si è verificato, io le devo dire la verità, da buon leccese, mi è dispiaciuto molto. È vero che in quel periodo andavano tutti, politici e non politici, a offrire di tutto ai tanzi, questo non so se è stato detto o meno, addirittura anche i villaggi turistici quasi regalati, poi ovviamente i famosi villaggi vacanze poi andate anche in fallimento. Ma il problema è di ben altra importanza. Io una volta mi sono permesso, quando il Parma è venuto a Lecce, ad avvicinarmi, sia, lo faccio nome perché non ho problemi, sia al presidente che al direttore sportivo, non l'avesse mai fatto. No, noi così, noi così. Poi è arrivata la gestione Bondi, subito dopo. La gestione Bondi cosa ha fatto? Non ha pagato nessuno, hanno pensato a rimborsare i soldi a quelli che avevano messo, avevano, stavano acquistando le famose azioni Parmalat. Sabino, questa storia è tristemente nota. Sappiamo anche che quella montagna di debiti che ha il Parma non siano soltanto gli stipendi dei giocatori, ma anche dei fornitori, che tutti sanno stati pagati, e che quindi cercheranno di salvare il salvabile da un procedimento fallimentare che è inevitabile. Marco da Venezia, poi salutiamo Pardo. Pronto, buongiorno. Dica. Grazie per essere. Io volevo intervenire sulla presenza agli stadi. Sì. Io sono uno dei primi abbonati ancora di Teleplus, quindi pensi da quanto andavo allo stadio la domenica a vedere il Milan, sempre come lo fa, dall'86, anche se vengo da Venezia. Il problema degli stadi adesso è la qualità degli stadi in Italia. Certo. Quindi se non si decide di intervenire pesantemente su questo, non avremo mai la gente agli stadi, questo è poco ma sicuro. E un altro problema, io vedo anche i nuovi stadi che stanno facendo in Italia, sono troppo piccoli secondo me, perché anche il nuovo stadio di Milano, che si parla di 48.000 persone, è piccolo per le esigenze future, per la mia opinione, non so cosa pensate voi. Bisogna vedere, Marco, bisogna vedere quali sono le esigenze future, perché Pardo che gira gli stadi vede come, insomma, se fai uno stadio da 40.000 più o meno lo riempi, se è un bello stadio. Ma sì, io penso che per esempio i dirigenti della Juve, che sono felici perché praticamente c'è sempre tutto esaurito quasi, sì, sì. Magari qualche domanda se la saranno fatta, no? Magari 5-6.000 spettatori in più poteva essere, però quello della Juve da 40.000 posti, secondo me oltre 50.000 oggi francamente è difficile da immaginare. Sopra i 60.000 proprio neanche a parlarne, sì. Secondo me insomma siamo lì, un buon Milan, un Milan da vertice secondo me ha una dimensione di stadio ideale da 50-55 posti, insomma, però ha ragione l'ascoltatore quando dice che, cioè, uno dei motivi principali per cui la gente non va allo stadio non è tanto il fatto che la partita è trasmessa in TV quanto il fatto che gli stadi fanno schifo, sono, guarda, estremamente cari, sarebbe la testa del tifoso, eccetera. Lo dico perché insomma è fredda cronaca, voglio dire, non è che quando le partite sono belle, gli stadi sono belli, il problema non è la televisione. In Germania gli stadi sono pieni e le partite ci sono. Certamente. Il problema è il livello. Allora, la televisione ti dà un prodotto comodo, chiaramente senza la stessa adrenalina e lo stesso divertimento dello stadio. Io lo dico proprio. Chi può andare allo stadio ma non c'è partita? Lo dico proprio, non è che nessuno mi licenzia. La pensiamo tutti così, compresi i vertici di Sky e di Mediaset. Quindi nessuno discute questo. La televisione chiaramente dà la possibilità per chi è lontano o per chi non vuole andare allo stadio di vedersi la partita. Certo. È chiaro che se i servizi all'interno dello stadio sono drammatici, se comprare 3 biglietti ti costa come 2 mesi di abbonamento alla Pay TV, se ti serve la tessera del tifoso devi farti censire, ma mi sembra che la dimostrazione, se piove non c'è la copertura, ma mi sembra che la dimostrazione sia proprio lo Juventus Stadium, no? Lo Juventus Stadium è sempre pieno e le partite della Juve vengono normalmente trasmesse. Ciao Pier, ci sentiamo domani. Ciao, ciao, ciao, ciao. GR. Tra poco, tra l'altro, saluto intanto Melissa, Melissa la prima a destra, poi al centro c'è Melissa, lei invece, eccola qua, si chiama Melissa, eccole qua, siamo pronti. Ma tutte Melissa si chiamano, scusa. Tutte e tre Melissa e tutte e tre col tiki tacco 12, sì, appunto, vabbè, anche sì. Per il feticista che ama il pomeriggio. Certo. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Abbracci, l'esultanza sulla panchina di Sassari, ancora la Dinamo, un anno dopo il primo trionfo nella sua storia, Sassari si ripete, batte Milano e per la seconda stagione consecutiva conquista la Coppa Italia. Meo Romeo non è il re del Colosseo, ma Meo Sacchetti è il re della Coppa Italia. Ciao Meo. Ciao. La seconda diversa dalla prima, una squadra diversa da quella dell'anno scorso, era rodata, era la Sassari dei cugini Diner, eccetera, eccetera, eccetera. Quest'anno un percorso completamente diverso, difficile chiederti quale sia il più bello, ma credo che questa ti abbia dato grande soddisfazione. Beh, sicuramente soddisfazione perché diverso, quello là sicuramente perché è il primo, e sai, la prima volta si ricorda tutto più con piacere. È una squadra diversa perché quella era una squadra che aveva delle letture diverse, con giocatori portati a costruire meglio. Questa è una squadra più forte fisicamente e più che attacca al ferro, magari con meno lettura, come sistema di gioco più o meno è quello stesso. Questa sì. Quando vuole difendere difende più dell'altra squadra per sì. Caratteristica. Sì. Forse c'è più allenatore in questa squadra o no? Ma no, guarda, voglio dire, anche là è una squadra, sai, voglio dire, ci sono un po' di filosofie in una certa maniera. Quella là è logico che con giocatori come Travis, Drake e anche Marcus Green l'anno scorso, che avevano questa capacità di lettura, si trovava sempre la soluzione migliore. Questi qua invece sono giocatori che attaccano il ferro e oppure hanno proprio questa propensione a crearsi questo tiro da solo, mentre gli altri lo creavano molto per gli altri. Sì. Senti, la Sassari della pallacanestro adesso, che altri obiettivi può darsi? Perché due Coppa Italia in fila, una prima partecipazione all'Eurolega, che credo sia stata più che altro una scuola, no? Sì. adesso è fatica, ma è una cosa importante. Sì, perché è così che si cresce. E adesso la dimensione quale può essere? Ma guarda, la dimensione è una dimensione che in questi anni siamo cresciuti passo dopo passo e abbiamo sempre fatto uno step in più. È logico che poi quando cresci ci sono molte più aspettative, la gente ti chiede qualcosa di più e ogni tanto uno direbbe cerco di stabilizzarmi un anno per, hai capito, per le fondamenta di questo. Noi abbiamo fatto sempre qualcosa di crescita, però vogliamo, siamo ambiziosi, come è giusto che bisogna essere nello sport, ma vogliamo essere molto concreti, avere un po' il nostro target di sardità, hai capito? Siamo una realtà che vive con molta emozione queste situazioni, anche in un modo che ci piace divertirsi con il sorriso sulle labbra, però crediamo che si possa fare ancora qualcosa di più, non sarà facile, però ci crediamo. Questa è stata questo passaggio è una cosa importante, che da Sassari si è spostato in tutta la Sardegna, ha un'identità. Certo. Una volta era molto legata molto lì a Sassari, adesso è molto legata alla Sardegna. Cioè, vi sentite un simbolo sardo, non più, sì, non più simbolo di casa, la squadra di Sassari. Guarda, questo l'abbiamo già provato nelle coppe che arrivavano sempre dei gruppetti, ma anche ieri al forum, vedere che oltre al nostro gruppo di tifosi che sono venuti giù col charter, c'erano degli spicchi di questa bandiera dei quattro mori o qualcuno in mezzo al pubblico di Milano, vuol dire che della gente del continente che si è mossa da sola con questo attaccamento a questa squadra, ma più che altro anche a questa terra. Certo, ma un'ultima cosa, Milano, dimmi la verità, ti ha deluso un po' o no? No, guarda, non guardo mai le altre squadre e so che la pallacanestro è molto strana, si diceva sempre che Milano si può battere in una partita, i playoff sono un'altra cosa, però sai, intanto bisogna cercare già di batterla, perché voglio dire, poi nel campionato italiano questa è una squadra che praticamente ha dominato in questa stagione, non so più da quante partite che non perde, però voglio dire, bisogna essere molto realisti ed arrivare al momento giusto. Lo sport è fatto di occasioni e quando ci sono le occasioni bisogna cercare di prenderle, perché sì, poi non è che passano molto. Perciò bisogna essere pronti nel momento giusto. Questo un po' di esperienza l'ho provata io nella mia carriera, perciò bisogna prendere le occasioni quando arrivano, e noi l'abbiamo presa e adesso ci abbiamo 11 partite di regular season e poi penseremo di prendere qualche treno interessante ai playoff. Grazie Meo. Niente, arrivederci. Un abbraccio, Meo Sacchetti. Allora, prima di Irene da Torino, Mauro da Biella, so che qualcuno, qualche tifoso Milano mi ha detto: vi prego, non parlate della mia Milano oggi, che delusione. Beh, ci credo. Cioè, Milano che stradomina in regular season, per 19 anni è stata fuori dalla finale di Coppa Italia, eliminata in vari modi. Arriva lì, gioca in casa ad Esio e un'altra volta se la vede soffiare sotto il naso. Chi ha festeggiato ieri non è solo la Dinamo Sassari, ma anche nello sci, Irene, Mauro state lì, ma anche nello sci lo sprint a coppia azzurro, sentiamo Federico Pellegrino con Dario Ricci. Sì, quest'anno sta veramente girando tutto alla perfezione, non mi stupisco troppo perché so che questo è il frutto di un lavoro molto intenso, non solo di quest'anno, di quest'estate, ma anche delle passate stagioni. Sicuramente non posso dire che me l'aspettavo, anzi non mi aspettavo sicuramente tutto e subito così quest'anno, però dopo la prima vittoria mentalmente è cambiato qualcosa e ho iniziato a credere di poter essere appunto tra i più forti a livello mondiale in questo momento. Gusto speciale a vincere in coppia? Sì, è bellissimo, bellissimo, io l'ho detto fin da prima dei mondiali, sicuramente riuscire a vincere una medaglia in una gara individuale è bellissimo, è importantissimo, però vincere una medaglia in una gara team, che sia la team sprint o un'eventuale staffetta, è qualcosa in più, perché sai che per vincere quella medaglia non hai dovuto contare solo sulle tue forze, ma anche sulle forze di un compagno. Questo era Federico Pellegrino con Dario Ricci. Torniamo agli ascoltatori. 800 24 00 24. Irene da Torino, buongiorno. Buongiorno. Io ho chiamato perché prima parlavate della ragione per cui le persone non vanno allo stadio. Sì. E io non so niente, tra l'altro non seguo personalmente moltissimo il calcio, però l'anno scorso ho provato a regalare al mio fidanzato i biglietti per una partita Milan-Juve a San Siro. Sì. Io sono juventina, lui è milanista. Non abbiamo avuto modo di andarci, a parte che costavano un rene, ma per questo vabbè, non importa. Ma poi è proprio era impossibile, perché io sono residente a Torino, avrei dovuto fare la tessera del tifoso. Sì. Che però voleva dire che poi dopo, quando andavo allo stadio a Torino, dovevo sedermi nella curva Ost, cioè non c'era modo di vedere la partita insieme. E allora io mica andavo a vedere la partita da sola, e comunque non è che questo impedisca i danni che fanno i tifosi sempre. No, non impedisce niente. Ne vedo la razza, però mi sembra proprio un modo di impedire alle persone normali, curiose, di andare a vedersi una partita. Io sono perfettamente d'accordo, sa, ed è per questo che, insomma, se qualcuno mi chiede ma vado allo stadio, cosa dici? Io sconsiglio, ma perché è uno spettacolo meraviglioso, però è di una difficoltà, di una inaccessibilità, che non in questo momento davvero andare a vedere il calcio in Italia è una cosa estremamente complicata, difficile, e ha il limite anche della legalità, perché io sono e sarò sempre contrario all'idea di far schedare i miei figli, ma perché? Quindi ci sono mille orpelli, al di là del fatto che ha ragione lei, e lo scrivono anche molti ascoltatori, costa un rene andare allo stadio. L'accesso allo stadio è grosso modo precluso per mille ragioni. Accesso ad uno stadio in cui non si sta comodi, non si vede bene la partita, eccetera eccetera. Quindi io credo siano queste le ragioni, e sono molte, piuttosto che non il fatto che ci siano le televisioni, perché le televisioni ci sono ovviamente in tutto il mondo, non solo in Italia, che trasmettono tutte le partite in diretta. Mauro Biella, buongiorno. Buongiorno, io torno sull'argomento Parma. Sì. E io seguo la pallacanestro. In due squadre sono fallite, lasciando un campionato a 14 squadre. Quando all'inizio del campionato già Forlì c'erano le voci che fideuzioni e cose mandate non erano effettive, rovinando il campionato. Sì, una storia del genere era capitata anche con Capodorlando in esatto, in Napoli è stata salvata al pero, tutti gli anni Napoli si scrive, rimane 2-3 anni in A2, poi sparisce, ricompra il diritto e ritorna. E poi, in base a cosa diceva la ragazza, proprio di quello volevo dire. Io seguo la pallacanestro Biella con i miei figli, ogni tanto viene mia moglie, 5 minuti compriamo il biglietto, abbiamo la tessera al botteghino, certo. E si va dentro. Certo. Siamo a Biella che non c'è più il calcio, vogliamo andare a vedere Novaro, Provercelli al sabato con gli amici, c'è uno sportello aperto, bisogna andare giù all'una per entrare alle 3, perché ora che si è preso i biglietti si fa un'ora e mezza di coda. Sì, è veramente un'assurdità che solo in Italia esiste, perché mio figlio vive a Londra, vicino al campo del Chelsea. Quando voglia di andare a trovarlo e andiamo a vedere la partita, prende il biglietto, paga con la carta di credito, entra e non serve la tessera del tifoso, e anche lì vanno a vedere le partite in diretta. Detto questo, Biella, quello del basket è un impianto meraviglioso, questo non per dire che sia più facile comprare biglietti, è una politica totalmente diversa quella degli altri sport. Torniamo sul caso Parma con qualche voce e un esperto. Sta raccontando tutto bene, ma è possibile che nessuno si sia mai accorto che il Parma era in questa situazione, che c'erano 200 giocatori che il Parma aveva sotto contratto? Io le spiego una cosa, dal punto di vista dei controlli bisogna tornare a dirle un sistema. Dal 2008 sono stati aboliti i parametri, che erano quelli riguardo la finanza e riguardo il patrimonio, e si sono aperti dei discorsi riguardanti esclusivamente i budget. Voi sapete meglio di me, i budget sono certificati da società alatere del calcio, sono stati i famosi advisor. Secondo gli advisor i bilanci del Parma erano a posto, secondo gli advisor, al 30 di giugno. Ma guardi che i fatti sono quelli, tutti gli altri sono discorsi inutili. Ma... Sì, sì, noi cominciamo oggi pomeriggio la settimana, tra l'altro, perché inizia c'è dato 2 giorni liberi. Cominciamo in anticipo la settimana e ci alleniamo tutta la settimana per preparare la partita di Genova. Poi se non ci saranno le condizioni per andarci, vorrà dire che ci organizzeremo con 4-5 macchine e ci presentiamo lì a Genova a giocare. Quello penso sia l'ultimo dei problemi, ecco. Che rimanendo in termini calcistici e che deve trovare delle soluzioni economiche, oppure deve, insomma, come anche il presidente Vecchio ha detto, deve fare dei passi rispetto al tribunale per poi poter sviluppare, insomma, il futuro. Adesso non è il tribunale che ha niente in mano, ma ci ha correttamente ascoltato. Dunque abbiamo sentito nell'ordine Tavecchio, Lucarelli, capitano del Parma, forse ci andiamo in macchina a Genova, e Pizzarotti, sindaco di Parma. Chi se non Marco Bellinazzo, il Sole 24 Ore, può illuminarci sulla situazione. Ciao Marco. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Adesso sembra quella del fallimento pilotato la situazione, no? Portare lì in tribunale, respirazione illuminare artificiale. Illuminare sulla situazione del Parma non è così facile. Diciamo che appunto i dubbi li abbiamo sollevati noi fin dall'inizio, sì, dalla cordata russo-cipriota, e quindi quando Tavecchio in qualche trasmissione dice che è anche colpa di noi giornalisti, insomma, non aver controllato, mi lascia un attimo perplesso, insomma, almeno sì, toglimi questa soddisfazione. Sul mio blog, insomma, sono diversi mesi che sollevo dubbi sulla consistenza dei bilanci del Parma, sulla correttezza. Non posso, nel senso che non ho i poteri della Guardia di Finanza o del Tribunale per andare a indagare la veridicità di quello che viene scritto. Comunque, quello che sta accadendo mi sembra ormai sotto gli occhi di tutti, se ne sono accorte tutte le istituzioni, perfino Lega e Federcalcio. Perfino, addirittura. Addirittura, sì. La soluzione a questo punto è quella appunto del fallimento pilotato. Cosa significa? Che c'è già un'udienza fissata del 19 marzo al Tribunale fallimentare, in quanto alcuni creditori hanno chiesto la messa in mora della società e quindi l'apertura del fallimento. I momenti dovrà portare i libri in tribunale, perché il tribunale dovrà rendersi conto di quella che è la situazione. Dopodiché che succede? Succede che si tenterà di non far fallire il Parma, quindi di far continuare l'esercizio fino a fine stagione, e in questo senso la grande novità potrebbe essere che sia la Lega, come negli sport americani, a farsi garante dei pagamenti di questi mesi. Nel momento in cui si arriva poi a giugno scatta la possibilità di utilizzare una norma contenuta nelle NOIF, nelle regole interne della federazione, che permette in poche parole a una società che si forma nella stessa città di acquisire il titolo sportivo, dando ovviamente adeguate garanzie patrimoniali, sì, e accollandosi solo i debiti sportivi, sì, quindi verso gli altri club e verso i giocatori, mentre tutti gli altri debiti, purtroppo quelli per i fornitori, finiscono nella, diciamo, circuito fallimentare, e ahimè diventa in qualche difficile modo verranno difficilmente saldati. Così si evita, insomma, al Parma di finire tra i dilettanti, come è accaduto il Siena. Si usa il modello utilizzato per il Bari l'anno scorso. Ma volevo chiederti anche questo: c'è un parallelo con la situazione del Bari l'anno scorso, ricordiamo, in corso di campionato, ricordiamo tante scene, come tante scenette, tante cose anche molto divertenti, come i giocatori del Bari che portano i cornetti ai tifosi in coda per il biglietto, ricordiamo i libri in tribunale, la querella, varie aste deserte prima che intervenisse la cordata di Paparesta, ricordiamo tutte queste cose. Poi il Bari sfiorò la Serie A e comunque esiste ancora. È esattamente la stessa procedura, Carlo, con la differenza che appunto a Bari si mobilitò un'intera città, sì, che con i soldi del botteghino permise quantomeno di finire la stagione, e allo stesso modo io vorrei sapere ancora chi sono i reali proprietari del Bari, perché il signor Paparessa, ex arbitro, con tutto il rispetto che gli dobbiamo, gli devono i tifosi del Bari per essersi assunto quest'onere, ha prelevato, diciamo, il titolo sportivo per 4 milioni e mezzo, si è assunto dei debiti sportivi per circa 3 milioni, ma da solo non credo che abbia la forza di portare avanti le società, e lui stesso ha fatto riferimento a dei soci, e anche qui, come nel caso del Parma, questi soci non vengono svelati. E io credo che anche su questa situazione Lega e PGC, come si sono svegliati qualche giorno fa, debbano vederci chiaro, debbano capire chi c'è dietro e quali garanzie può dare per il club pugliese. Grazie Marco, grazie, buon lavoro, ci sentiamo presto. A presto, ciao, ciao Marco. Ciao Marco Berinazzo, chiudo con Diego della provincia di Bergamo rapidamente, buongiorno. Sì, buongiorno. Dico. Parto da dove stavate finendo voi il discorso Parma. Sì. Mi sembra che, un mio parere modesto, è una sceneggiata tutta all'italiana, come tutto quello che circonda l'Italia, perché fare un salvataggio adesso, e come si è detto, chi avrà la peggio sono sempre i fornitori, non mi sembra comunque giusto. Uh-huh. I calciatori no? Le altre società no, i fornitori sì, forse sono quelli che ne hanno più bisogno. Uh-huh, certo. Grazie. No, ma non c'è da ringraziare, è chiaramente una distorsione, però questo è realisticamente il percorso che può essere seguito. Poi andare ad indagare sulle responsabilità autentiche di questo fallimento, non è molto difficile avere un'idea chiara. Però sarà tutto laterale rispetto a quello che capiterà con il Parma. Ragazzi, torniamo a parlare domani, ho l'impressione. Domani parleremo ovviamente di una Juventus che gioca in Champions League. Questa sera gioca il Napoli, gioca l'Inter. Magari avremo anche qualche altro tema di campionato. Domani c'è anche il derby di Genova, giusto? Se non piove la vediamo sta partita. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici in redazione, ciao a tutti. Pochi secondi ormai, si aspetta solo il fischio finale, si aspetta solo il fischio, eccolo!